Io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sono detto, no, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantini, autore di questo programma, Gianmarco Ferronato in regia, e voi, sempre protagonisti, 800240024, messaggi 349-238-6666. A voi tutti dedicherò poi le chiacchiere sul mercato del pallone, Poi parleremo di inutili gol estivi che riempiono, però utili a riempire le prime pagine. Se volete, ma anche no, parleremo di carri armati e dintorni, però adesso silence please, perché oggi, perdonatemi questa passione viscerale per il ciclismo, e c'è una cattedrale del ciclismo, si chiama Alpe d'Huez, è qui, in quella cattedrale del ciclismo, su quella cattedrale del ciclismo, sulla quale oggi attendono da giorni ormai 1 milione di persone, se avete capito bene, 1 milione di persone lì accampate in questa grande festa che è il Tour de France. Ebbene, su quella montagna, in quella cattedrale del ciclismo, un pirata che si fa di tutto per dimenticare e un cowboy dopato hanno scritto alcune delle pagine tra le più controverse dello sport recente. Sentiamo. Vola verso la vittoria, verso il trionfo dell'Alpe d'Huez, e vola anche per il podio finale del Tour de France. Poi abbiamo cominciato la salita un po' forte, sono rimasto un po' indietro nei primi chilometri, e poi una volta raggiunta la testa del gruppo ho cominciato l'andatura che riuscivo a mantenere, ed era alla fine, ho avuto ragione, questa è stata per me una bella soddisfazione, credo una soddisfazione per la squadra che ha lavorato tutto il giorno. Si porta al terzo posto della classifica generale. Il pirata ha colpito, eccolo con le telecamere fisse, a 2 anni di distanza dalla sua ultima vittoria, il Tour de France ci ripropone un grandissimo Pantani. Oltre al gesto atletico, bisogna applaudire a Pantani, soprattutto il fatto umano. A livello morale, questo ragazzo che ha avuto tanta fortuna, oggi finalmente può alzare nuovamente le braccia al cielo, un gesto proprio quasi un pugno. At the Tour de France, since he won at Verdun back in 1993, this will be the greatest win because it's Alpe d'Huez, the mecca of world cycling. That's the bend that Greg LeMond once almost overshot as he was riding to win the Tour de France. Torniamo al pirata e al cowboy, anche perché questo è il titolo del libro che ha scritto non molto tempo fa il mio caro amico Leo Turrini, inviato storico di QS. Ciao Leo. Ciao Carlo, devo dire che tu mi fai dei colpi bassi, eh. Io sono specializzato a fare colpi bassi. No, non per la mozione dei renziani contro Alfano che ho sentito in diretta, ma perché mi sono commosso riascoltando la voce di Adriano De Zan che si incrinava raccontando l'arrivo di Pantani all'Alpe d'Huez. Devo dire che quello è un grande momento di giornalismo televisivo, eh. Anche perché Touché. Adriano De Zan all'epoca non era più giovanissimo, aveva cominciato che ancora pedalava Fausto Coppi sulle strade, e avvertire questo suo moto di partecipazione umana alle imprese del pirata di Cesenatico ci aiuta a ricordare quello che, come dicevi tu, ormai si vorrebbe lasciare finire nell'oblio. Senti, mandiamo al diavolo chi ha scritto via SMS: ciclismo uguale lo sport più brutto del mondo e il più finito. SMS che mi arrivano in continuazione, 349-238-6666. Ma guarda, io penso una cosa, che in bicicletta, proprio per un'esigenza naturale, ci siamo andati tutti sin da quando eravamo bambini, piccolini, anche con le rotelle attaccate alle ruote, no? Quindi il ciclismo in quanto tale, come espressione della vitalità umana, non finirà mai. Il problema è un altro, che io non so, tu domenica forse eri depresso per il terzo posto di Valentino in Germania. Fai il bravo, Leo, fai il bravo. Io ero depresso perché Valentino ha corso male, non per il terzo posto, perché Valentino non mi ha convinto per la moto che aveva, per il setting. No, non mi toccare negli affetti. No, ma io sai che sulla materia Rossi mi astengo, nei tuoi confronti tu sei un pochino, diciamo così, depositario della verità assoluta, quindi io mi taccio. Però dopo la gara di Rossi ho guardato l'ascesa al Mont Ventoux, no? Credo come abbiano fatto anch'io, naturalmente, in salotto, in divano. E vedere il modo in cui questo Froome, non so come si pronunci, si è messo a pedalare freneticamente all'improvviso per togliersi di ruota Contador, ecco, non è stato bello, perché almeno la percezione che ho avuto io è stata di vedere qualche cosa di innaturale. Quando lo sport a qualunque livello ti suggerisce la sensazione che stai vedendo qualcosa che non è umano, e ci rimani male. Sì, Turrini può rispondere a questa mia domanda, mi scrivono sempre via SMS, quindi mi astengo da ogni commento, Leo. Sì, ma Froome monta un 65 Polini o Malossi? Scrive Marco, e questo credo che tu abbia già risposto. 800 24 00 24, tra poco cominceremo ad ascoltare anche la vostra voce, oltre che a leggere i vostri SMS. Allora, torniamo al Pirata e al Cowboy. Insomma, in questo Tour de France, leggevo anche oggi, si sta facendo di tutto per cancellare l'esistenza. Questo a me fa male tuttora, poi voi pensatela come volete, perché no, alla fine guarda, ognuno ha il suo pensiero e se lo tiene. Si fa di tutto per cancellare quel signore che ha il suo nome inciso sui tornanti numero 2 e 3 per la cronaca dell'Alpe d'Huez. Guarda, io penso una cosa, a me questo atteggiamento abbastanza diffuso, che riguarda anche la nostra categoria, ti devo dire, quella di quelli che fanno informazione, fa addirittura orrore. Cioè, la verità è che qui c'è un nervo scoperto. Allora, Marco Pantani vinceva in bicicletta, in salita, quando era un ragazzino, staccando tutti, senza far ricorso a nessun prodotto proibito, vietato, eccetera. Le cose dopo sono andate come sono andate, conosciamo anche l'epilogo tragico della sua esperienza umana, una cosa spaventosa, e però di fronte a questa realtà si è preferito chiudere gli occhi, cioè si è detto, vabbè, ma evidentemente questo è uno da dimenticare, no? E non è vero, non è mai stato vero, non solo nel tempo del duello con Armstrong, al quale, come tu gentilmente accennavi prima, io ho dedicato il libro Il Pirata e il Cowboy. Pantani era un talento naturale della bicicletta, poi a un certo punto nel ciclismo, parliamo quantomeno diciamo dagli anni 90, prima non mi voglio spingere perché ero troppo piccolo, troppo giovane, hanno cominciato a imperare delle logiche legate alla chimica, all'esasperazione scientifica, a tutto quello che vuoi tu, no? Solo che non hanno mai affrontato il problema, ma ripeto, cominciando dai colleghi miei e tuoi, avendo l'onestà intellettuale di dire fanno tutti così, hai capito? Sì, hanno sempre preferito selezionare il singolo che cadeva nella rete dell'antidoping, additandolo al pubblico ludibrio, tant'è vero che abbiamo assistito a questa cosa allucinante, che Pantani era il retro del cattivo e Armstrong era l'angelo, no? Perché nessuno aveva voglia di andare a vedere, ma diciamo, questo Armstrong, se pedala in quel modo lì, tipo From oggi, siamo proprio sicuri che non faccia anche lui parte di un certo tipo di cultura, in cultura, subcultura, tutti i termini che vuoi del doping. Ecco, bisogna uscire, secondo me, una buona volta per tutte da questo equivoco qui e avere il coraggio di dire la verità. Hai ragione, Leo. Io ti chiedo, se hai ancora 2 minuti di pazienza, poi ho altre 2 domande di numero per te, cioè 2 considerazioni che voglio rendere pubbliche subito dopo le informazioni dalle strade, sempre Leo Turrini e sempre voi, 800 24 00 24, traffico. Io quando vengo convocato da Carlo Genta mi sento come Benigni, vorrei mettermi tutto in nudo per la felicità, hai capito? Tutti convocati. Eccoci tornati, 800240024, tra poco cominciate a parlare voi, perché io sono già un po' stanco. Magari non Leo Turrini, che è collegato con noi. Allora, io dicevo prima, avevo due considerazioni da girare a Leo, che mangia pane e bicicletta, pane e motori. La prima sul pane e bicicletta, ancora per chiudere il discorso. Caro Leo, noi siamo politicamente scorretti, come tu ben sai, e quindi è fastidioso dirlo, ma bisogna farlo. Mi piacete per quello. Ma bisogna farlo. Il keniano bianco, adesso mi direte la presunzione di non colpevolezza, che per me è Vangelo ed è religione, no? Perché io tengo molto a questo. Però la sensazione è un'altra cosa. Il keniano bianco somiglia maledettamente al fratello del cowboy, almeno nello stile di interpretare le corse, nell'essere cannibale fino in fondo, nel volere vincere a tutti i costi e qualunque cosa, almeno in questa edizione del Tour de France, compreso una cronometro che nemmeno, almeno a sentire lui, aveva l'intenzione di vincere. Io sono convinto che oggi tenterà di espugnare il santuario, cosa che Momentu e Alpe d'Huez è riuscita solo a due corridori nella storia. Correggimi se sbaglio, il primo si chiamava Fausto Coppi e il secondo Lance Armstrong. Ebbene, speriamo sia solo un'evoluzione della specie umana e non un'evoluzione di altre cose. Beh, io non ti correggo, integro: anche Pantani ha vinto sia sul Mont Ventoux che sull'Alpe d'Huez, ovviamente. No, guarda, io domenica, appunto, dicevo prima, seguendo la tappa in televisione, ho proprio avuto a pelle la sensazione di rivedere Armstrong. Dopodiché hai ragione, ci sono delle regole, dei controlli, dei codici. Se questo From supera tutti i test antidoping, uno potrebbe dire: ma li aveva superati anche Armstrong a suo tempo. A me, ripeto, la sensazione che rimane addosso è di vedere qualche cosa che non rientra nel contesto, diciamo così, delle possibilità umane. Poi, insomma, il vero interrogativo, Carlo, è questo qui: finché noi nello sport riusciamo a trovare quantomeno l'impressione, sperando non sia un'illusione, di un miglioramento del potenziale dell'essere umano, delle sue risorse, allora va benissimo. Cioè, voglio dire, 30 anni fa in Italia l'età media di vita era 72 anni e mezzo, oggi 85. La medicina va avanti, la scienza va avanti, la gente vive meglio, si alimenta meglio e tutto il resto. Se è così per certe imprese dello sport, benissimo. Se dietro ci fosse invece un'alterazione innaturale di quelli che sono i limiti del singolo, dell'individuo, miei, tuoi, di From, di Armstrong, una volta, allora non va più bene. È chiaro che ormai, dopo tutto quello che abbiamo sperimentato, viviamo sotto una cappa di sospetto. Di fronte a queste prestazioni rimaniamo lì e ci chiediamo: sarà vero? Posso citarti un maestro, poi ti cedo la parola. Ma certo. Gian Paolo Ormezzano, abbiamo fatto tante Olimpiadi assieme, ci sta ascoltando, lo saluto con un affetto incredibile. Una volta mi disse: quando scrivi un articolo dedicato a un record speciale, a un'impresa straordinaria, metti sempre due parole all'inizio del pezzo: salvo doping. Poi dopo racconta le tue emozioni per quello che hai visto, ma la premessa falla, perché rischi di rimanere fregato essendo innocente. Sai, noi al maestro obbediamo sempre, no? Piaccia o non piaccia a lor signori, 800240024, noi al maestro obbediamo sempre. Leo, per chiudere ti chiedo invece un commento su pane e Formula 1. Allora, io leggo, spiegami un po' sta storia. Testa Silverstone, Alonso dice: è una buffonata, un ballo in maschera, io non vado. Tutti a ribattere: ma Alonso fa il figo, fa il fenomeno. Invece anche Raikkonen si sottrae al test di Silverstone dicendo: vabbè, non è carnevale, io sto a casa. No, guarda, allora, Alonso non è andato a Silverstone perché la modella russa con le pale vive, Dash, aveva già prenotato una settimana di vacanza. Però, al di là di questo, ha ragione Fernando: alla fine dei top driver ci sarà solo per un mezzo pomeriggio Vettel, perché sono, dal punto di vista dei piloti di punta delle squadre, dei test inutili che servono solo per sperimentare le gomme per due ore. Piuttosto, la vera notizia della Formula 1, come tu sai, è che Bernie Ecclestone, finito questo processo in Germania, ha accusato di un mega caso di corruzione, una tangente forse pagata di 44 milioni e mezzo di dollari. Io spero che nella peggiore delle ipotesi accada quello che ogni tanto si sente dire in Italia, quando dicono: se Berlusconi lascia, subentra la figlia Marina. Ora Ecclestone ha una figlia che si chiama Tamara, che è appena apparsa smutandata in copertina su Playboy, che io sogno diventi la presidentessa del circo a quattro ruote. Sarebbe una cosa meravigliosa per ognuno di noi e toglierebbe anche la residua noia di certi gran premi banali. Non farmi ridere troppo, se no riesco a parlare. Senti, ti ringrazio e ti mando un abbraccio. Un abbraccio. Sentiamo lunedì per celebrare Valentino. Va bene, fai il bravo, lasciami stare Valentino. Ti aspetto, molto bene. Ci sentiamo lunedì. Caro Leo, grazie. Grazie anche a te, Leo Turrini, pena storica dello sport italiano, come sapete bene. Allora, però adesso voglio parlare con gli ascoltatori, 80024 0024, happening radiofonico, quello che volete, è l'argomento di oggi. Renzo Imperia, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie Genta. Anch'io sono ossequioso come Turrini quando lei mi convoca, eh? Anche se devo dire, se mi consente, una punta di polemica. Con i suoi predecessori c'era un po' più di spazio per noi ascoltatori. Questa è una filatina ad orecchie. Io va bene, la accolgo e farò il possibile. Ecco, lei è appassionato di ciclismo come me, o io sono appassionato di ciclismo come lei. Allora volevo questa volta non chiedere così a lei quello che ne pensa, perché lo so già, io l'ascolto, l'ho ascoltato nei giorni scorsi, ma io volevo associarmi alle sue idee, alle idee di Leo Turrini di prima, cioè quella pedalata di Fon l'altro giorno sul Mont Ventoux, insomma, non aveva niente di regolare secondo me. Io ho avuto la possibilità, anche abitando qui vicino, insomma, sono quasi al confine in Serie, vicino a Nizza, sono andato a vedere sono squadre di Nizza in apertura di tour, e mi creda, lei avrà visto sicuramente più cose di me, non si riusciva a vedere lì dove ero piazzato io a 300 metri dalla partenza di Piazza Massena, non si riusciva a vedere i colori delle maglie, non dico il numero, la spinta sulle maglie, talmente passavano veloci, ma d'altronde hanno fatto i 60 all'ora in quella cronosquadra. Quindi voglio dire, d'accordo che la cronosquadra sono 9 corridori tutti della stessa equip, quindi l'amalgama, l'affiatamento, gli allenamenti, però 60 all'ora. Sono d'accordo, Renzo, ma sono d'accordissimo con lei, sfondo una porta aperta, quelle medie hanno poco a che fare con i limiti della fisiologia umana. Anch'io sono rimasto molto perplesso di fronte alle medie di quella cronosquadra, perché se la facciamo con un 50, con una motorino 50, ebbene arriviamo, la facciamo con una squadra di motorini 50, arriviamo decimi in classifica, e quindi... Insomma, è una considerazione banale finché si vuole, però lo si legge in controluce attraverso quei tempi della cronosquadre. Lei sfonda una porta aperta, mio caro. Vittorio Lecco, buongiorno. Buongiorno. Una considerazione e una domanda. Allora, sul ciclismo, allora, Fantani è stato tagliato fuori dai francesi, cioè clamorosamente, perché dava fastidio a un italiano che correva così in bicicletta. Perché non era uno che andava bene a cronometro e in salita, cioè in tutti quanti i campi, perciò lui era proprio un scalatore, e poi non beccava le motocche, che può succedere, è anche un fatto, cioè proprio di costituzione, tante volte averlo alto. Allora ribatto a lei, e poi mi risponde, perché Contador no? Allora, Contador secondo me è un altro di quelli che è una via di mezzo, cioè ha fatto qualcosina in più, ma non ha fatto quelle cose esagerate che ha fatto, che sta facendo se From, non corre normalmente, cioè non è che puzza la velocità o che stacca gli avversari, come Molina non è da scalatore, cioè proprio sembra una macchina impostata, capito il discorso? Se tu guardi, sembra che su l'arrampichino quando vanno su in salita con il cambio più basso in assoluto, certo. E lui Molina è, certo, è costruito come campione. Poi io sono sempre dell'idea che lei si ricorda l'altro che faceva, l'altro che pedalava così in salita? L'altro che pedalava così in salita si chiamava? Armstrong. Sì. Fantani, Virent, tutti scalatori in salita, non camminano per staccare, dico io, anche per fare, non staccava. Vittorio, non la sento più, Vittorio, la sento molto male, se mi fa la domanda poi le rispondo. Allora, anche Armstrong non staccava così in salita, era un passista che stancava, era meno sospetto secondo me, non aveva quelle frequenze io ho visto un pezzettino che andava come se fosse il triciclo. Sì, ossessivo, ma numero di pedalate ossessive, due al secondo sono una cosa irraggiungibile, una cosa impensabile. Ma ha detto che aveva una domanda? No. Vittorio, mi spiace, la sento davvero male. Non posso rispondere io, non possono ascoltare gli altri ascoltatori. Silvia Bergamo, buongiorno Silvia. Sì, buongiorno. Io volevo solo intervenire, spezzare una lancia a favore dei ciclisti. Prevengo da una famiglia di ciclisti che sono stati anche nel professionismo magari in passato, e quindi chiedo solo a chi guarda il ciclismo a volte di andare oltre quelle che sono ad oggi le logiche della vittoria, dell'arrivo, dell'efficienza a tutti gli effetti, e pensiamo a quelli che magari alle luci della ribalta non si vedono e hanno fatto tanti sacrifici per arrivare fino a dove sono lì, e magari non se ne parla, nessuno ne dice e fondamentalmente non fanno del ciclismo magari lo spettacolo di cui oggi abbiamo bisogno, e proprio per questo siamo arrivati a questi livelli, a livelli in cui gli uomini non sono più sportivi ma sono quasi macchine. Silvia, posso fare una domanda indiscreta? Sì. Possiamo fare dei nomi? Lei insomma ha parenti o amici che corrono in bicicletta? Sì, sono sorella di un ex corridore professionista, però non posso dirlo perché non ne ho parlato con lui prima, quindi non posso condividere. Va bene? Io accetto e raccolgo il suo pensiero e la ringrazio. Torni a trovarci quando vuole. 800 24 00 24 è il vostro numero verde. Per la cronaca, visto che ce lo chiedono in tanti, dico che Fognini è passato ai quarti al torneo di Amburgo, battendo in due set Grenoyers. La Pennetta è in questo momento al terzo set, secondo turno con la Alep. Vediamo se riusciamo a dare il risultato finale prima del giro delle 15, quando finirà il nostro programma. Tutti convocati. Allora, a giudicare dai messaggi siete belli carichi, eh? Messaggi 349-238-6666. Ma io voglio sentire voi. 800-24-0024, perché mi diverto di più. Aggiungiamo dell'altro, oltre ai discorsi che abbiamo fatto. Per la cronaca, tappa più bella del Tour de France, non piove a giudicare dalle immagini, gruppo compatto, Sky davanti, a protezione gli scudieri, a protezione della maglia gialla inattaccabile, secondo me, di Chris Froome. Ebbene, aggiungiamo dell'altro, ma sono discorsi estivi. Molto belli, molto divertenti, eh? Allora, c'è Belfodil che ieri ha sbagliato un paio di rigori nella prima uscita stagionale dell'Inter, o comunque in questa amichevole. Perdonatemi, ma non tengo il conto dei gol d'estate, perché vanno bene per questo periodo, per riempire le prime pagine, per trovare delle suggestioni, visto che ne siamo a corto. Allora, Beccalossi ha sbagliato due rigori, sbagliò, è meglio usare il passato remoto visto che è passato un po' di tempo. Sbagliò due rigori importanti per l'Inter, molto più di quelli di Belfodil, in una lontana partita europea di molti anni fa. Però, visto che è stato tirato in ballo, due rigori sbagliati da questo, due rigori sbagliati da quell'altro tempo fa, è stato tirato in ballo. Allora il Beck allunga un consiglio al suo giovane collega, questo: ti prepari, venivo da un periodo positivo tra l'altro, e niente, soprattutto la sinistra del portiere l'ho chiusa troppo e la palla è andata a lato. Non so cosa è successo perché sono scappati tutti, mi hanno detto devi batterlo te e non potevo tirarmi indietro. Ho ribattuto anche il secondo, ma il portiere l'ha riparato. E allora dai un consiglio a Belfodil, visto che tu sei un esperto. Così diciamo, appena finito il Ramadan vai che ti batti ancora i calci di rigore. Allora aspettiamo che finisca il Ramadan, alle cui regole e norme Belfodil si attiene, come sapete. Non può mancare nemmeno oggi un estratto dal De Laurentiis pensiero, questa volta su Zuniga che dovrebbe passare alla Juventus. E Zuniga fa la fine che vorrà fare lui, perché noi gli abbiamo offerto a braccia aperte una prosecuzione, ma perché lui ha un agente che crede di essere il genio del calcio mondiale e ha pensato che per lui il futuro deve essere altro, io li lascio giocare, perché poi la vita deciderà se hanno fatto bene o hanno fatto male. Io 3 anni fa ho fatto una proposta, 2 anni fa l'ho ripetuta, poi mi sono stancato e alla fine mi sono fatti i conti. Ho detto: quanti anni avrà Zuniga l'anno prossimo? Quanti altri anni potrà giocare? Cosa ho risparmiato? Con quello che ho risparmiato compreremo uno migliore di Zuniga. Avete capito? Tanto a 164 milioni e mezzo, come abbiamo detto ieri, come oggi viene riportato su tutti i giornali, De Laurentiis ha 127 milioni e mezzo? Sì, 64 di Cavani più 60 che aveva messo nel salvadanaio, chissà com'è grosso quel porcellino per metterci 60 milioni di euro. Comunque ha quei soldi da spendere, quindi va via Zuniga, fa niente, ne compriamo uno migliore, tanto i denari non mancano e a buon intenditor poche parole. Ma andiamo oltre ancora, perché ieri episodio molto divertente in giallo-rosso Roma con Borriello, che a un certo punto ha sparato un sinistro micidiale, non centrando la porta ma la faccia di un tifoso che dietro a quella porta stava. Garcia ha trovato il modo di... così, di elogiare lo stesso suo centravanti. Buongiorno mister. Buongiorno. Volevo sapere come ha visto Borriello in campo, la prestazione di oggi e se punta su di lui per questa stagione. Marco, il ha della poudre dal piede gauche, tu sai traduire ça? Ha la polvere da sparo nel piede sinistro. Capito? Ha la polvere da sparo nel piede sinistro, mentre vi do un'altra notizia di cronaca appena arrivata, cioè caduta in questo momento, Pennetta passa al turno battendo la Alep, come abbiamo detto prima, per ritiro. Si era nel terzo set, quindi Pennetta va avanti insieme a Fognini, anche se in luoghi diversi. Allora, torniamo a Borriello, torniamo a quel sinistro finito fuori dallo specchio della porta e finito direttamente sul naso di un tifoso della Roma. Allora Garcia dice: Borriello ha la dinamite in quel piede sinistro. Il tifoso dice un'altra cosa, questa: Marco Gonini, che è successo? No, perché ti sei ferito? Gli allenamenti e stavano facendo i tiri. Marco Borriello ha tirato una gran pallonata e mi ha preso a me, invece di prendere la porta è sempre il solito. I'm feeling electric tonight, cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Allora, Summertime Sadness. La prima musica di oggi. Ieri abbiamo ricevuto molti elogi per aver fatto sentire in apertura della nostra trasmissione il boss Bruce Springsteen. Oggi è un'altra cosa, chiedo a Francesco Bibi Belluzzi, nostro amico e giornalista della Gazzetta dello Sport, se a lui piace questa Summertime Sadness. Assolutamente sì, sì sì, un'ottima ciao, scelta. Ciao Francesco, direi. Ciao buongiorno Bibi. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Deve ascolta. Deve essere stato un impatto, insomma, avere il tifoso colpito da Borriello, Bella, Non bella, male. Sì, magari se colpiva una tifosa era meglio, visto che... No, ma le rovina il naso, ma cosa stai dicendo? Le rovina il naso, almeno ha preso... No, meglio lui, che ha risposto a questa domanda con la maglietta sporca di sangue, come mi ricordo ma molti anni fa, ma questi sono dettagli, il mio idolo Carlos Alberto Tarantini, che nel 78 alzò la Coppa del Mondo con la maglia a me molto cara, albiceleste dell'Argentina, con la maglietta sporca di sangue. Questi sono dettagli. Sì, sì. Vero, Francesco, io ti dico, allora, sentendo queste storie, queste spigolature estive, che peraltro ci divertono un sacco, leggendo pagine e pagine e pagine dedicate a Carlitos Tevez, altro giocatore che a me diverte molto, sia come giocatore che come personaggio, però leggendo tutto questo, leggendo i racconti che anche sulla Gazzetta sono stati fatti molto belli dell'infanzia di Tevez, di Fort Apache, di quel quartiere in cui non entra la polizia. Ebbene, quest'estate vive, ma grazie alla Juventus, nel nome di Tevez e nel segno di Tevez. Mi ricordo un'epoca in cui, insomma, non avevamo bisogno di andare sempre dalla stessa parte per trovare dei personaggi anche con storie da raccontare. Mi sembra che al momento siamo un po' sprovvisti. Sì, sicuramente Tevez è in questo momento assieme a Mario Gomez uno dei due personaggi più importanti che sono arrivati nel calcio italiano, a fronte di tante qualcuno lo abbiamo visto. E Carlitos Tevez e Mario Gomez sono sicuramente personaggi di spicco arrivati quest'anno nel calcio italiano. Sì, però di storie divertenti anche da sotto l'ombrellone, come dicevi tu, insomma, ne mancano, anche perché mancano i personaggi da copertina. Lo dicevo proprio ieri sera, sono stato proprio ieri sera a Sky e si parlava proprio di questo, cioè i tempi dei Pancaro, dei Fiore, dei Coco, dei Bettarini, dell'Inzaghi, dello stesso Bobone e Vieri, sono finiti, quindi sono pochissimi i giocatori che ci regalano, delle grandi storie, un po' Quagliarella, perché Quagliarella è questo personaggio single che d'estate si scatena e diciamo recupera anche abbastanza, è un buon goleador anche fuori dal campo, ecco. Sì, è un po' un goleador anche fuori dal campo. Quagliarella ci regala delle soddisfazioni, perché è sempre in pista, è sempre attivo, è simpatico, è un personaggio divertente. Magari non la è cosa Ibrahimovic, farà meno piacere a Conte. Non è Ibrahimovic. Conte un po' lo bacchetta un po' per questo, ma è un ragazzo poi molto professionale, cioè in campo certo. Dà quel che deve dare e anche fuori, devo dire. Per fortuna iniziano i mondiali di nuoto la settimana prossima, di cui parleremo a lungo, almeno lì magari qualche storia da raccontare la troviamo, qualche amorazzo estivo. Ma di Federica? Bah, non so, di lei o chi per essa, dimmelo tu. Io credo che Federica starà più sulla difensiva, e in questo momento Federica ha solo bisogno di stupire coi risultati più che coi fidanzati, ha fatto parlare un po' troppo di sé per tutto il resto, e quindi da lei ci si aspetta un ritorno ai risultati, quindi dovrà cercare di dare il meglio in acqua. Sì, tra l'altro oggi sulla Gazzetta vi consiglio pagina 18 in fondo, in mezzo, per parlare di ciclismo e dintorni, quello striscione issato dalle tifose di Sagan, credo non ti sia sfuggito. Lo dico in inglese: touch my ass if you want. È divertentissimo. Le tifose un po' meno, perché non è che mi sembrano delle Canalis o delle Belen, ecco. Però lo striscione è sicuramente divertente, e non so se faranno presa su questo ciclista adesso. C'è tantissimo, perché è considerato veramente uno dei nuovi fenomeni, insomma. Sagan è personaggio di punta Bibi, ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di personaggi come Sagan, come Tevez, come, insomma, una volta ne avevamo a bizzeffe, adesso un po' meno, quindi sì, abbiamo bisogno di queste cose, perché... Poi quelli che dicono di no sono i primi che vanno a leggersi quelle notizie, perché esatto, è così, esatto. E lo sappiamo perfettamente sia io che te, no? Ma guarda, il giocatore ha bisogno di stare sotto i riflettori sempre, però fa non volerci stare. Però il giocatore che poi accetta la Costa Smeralda, Milano Marittima, Forte dei Marmi, Formentera, Ibiza, ha bisogno di stare in quell'ambito lì. E ti assicuro che, ritirati o no, in quei posti alla fine ci vanno tutti, perché noi quest'estate magari abbiamo celebrato più i Marchetti, Peluso e Quagliarella, che abbiamo visto di più, però in quei posti c'era anche Iniesta, c'era anche Klose, c'era anche Robben, c'era anche Messi, c'era anche Ibra, cioè alla fine tutti, chi più chi meno, vanno in quei posti lì. Uno che si estraniava molto era Del Piero sceglieva sempre posti tipo la Polinesia, posti del genere. Però alla fine il calciatore ha bisogno di far sapere che è lì, secondo me. Ma è chiaro, ma è chiaro. Questo, poi magari vai, lo avvicini e ti manda via, o non, ti dice non posso parlare, o devi chiamare l'addetto stampa. Però il calciatore ha bisogno di far sapere che comunque anche fa curriculum. Certo che fa curriculum, ma certo, fa curriculum, fa cassette, fa denaro, ma questa è la legge del mercato. Bibi, ti chiedo ancora una cosa, so che siamo in ritardo sul traffico, però insomma voglio farti ancora una domanda prima di salutarti e ringraziarti. Facciamo invece, allora, a Balotelli siamo abituati, a Tevez ci abitueremo, Balotelli a Pellegrini... Balotelli ha scelto la Grecia, ha fatto vari tiri, ma è stato anche in Grecia. È stato anche in Grecia? Sì. Vabbè, io non sono stato né in Grecia né a Formentera, però... fammi un nome secco di un personaggio che ritieni possa diventare the next big thing, sempre per usare parole inglesi, la prossima grande attrazione del circo? Ma se giocasse di più, un personaggio potrebbe essere sicuramente il portiere Perin. Bisogna vedere se gioca. Perin è un tipo molto istrionico, molto, ecco, se devo dire un giovane tra quelli che ho visto, Perin è sicuramente un personaggio che può essere da copertina, perché è particolare, ha un taglio di, ha i capelli lunghi, si tuffa in un certo modo, fa notizia, bisogna vedere se gioca, perché lui è al Genoa, il Genoa si è privato di Frey, però vuole prendere anche un altro portiere proprio per cautelarsi, però se gioca io credo che Perin possa essere un bel personaggio, un personaggio. Può essere, però al Milan insomma hanno cercato abbastanza di domarlo, è uno che esce, che si diverte, però non è Balotelli, ecco, lo può essere Niang, un personaggio, ecco, quello sì. Sicuramente. Da Niang, quando gli ha ritirato la patente a 17 anni, che si spacciava per Traoré. Bibi, ti ringrazio e ti mando un abbraccio. Una grande squadra, per dirvene un altro, che è Nainggolan. Nainggolan non è male. Rimane un po' nel suo ambito. Sì, lo so, ma aspettiamo la fine del mercato, perché secondo me non... Mi sembra anche con una crestina bionda, mi sembra che Nainggolan abbia prodotto qualcosa nel ritiro, ho visto ieri qualche immagine. Aspettiamo che arrivi dalle parti di Milano magari o dalle parti di Roma e poi ne riparliamo. Grazie Bibi, grazie, mando un abbraccio. Grazie, allora ci fermiamo per il traffico, poi devo rispondere a un paio di sms. 349-238-6666 è il vostro contatto. Tutti convocati. Ragazzi, io vorrei che ascolto voi con gli occhi, guardo la tappa del tour, perché 78 km all'arrivo, che sono i più belli poi, c'è la Saxo di Contador che sta muovendo i suoi guerriglieri, i suoi assaltatori per permettere, per prevalare il terreno ad Alberto Contador. Perché userà ogni centimetro di questo, del santuario di qui sopra, che si chiama Alpe d'Huez, per provare ad attaccare l'inattaccabile Chris Froome. Allora, dicevo, c'è chi scrive: siete caduti in basso invitando questa gente. Non condivido, perché chi scrive questo messaggio è il primo che poi va a leggersi di Barbara Berlusconi e del suo nuovo amore, che non è più Pato ma pare uno studente barista. Ma che cazzo fate, gossip puro? Non vi vergognate a parlare pure di Rocco Siffredi e Cicciolina, ma volentieri, qual è il problema? Perché insomma, di cosa dobbiamo parlare? Di 4-4-2 il 18 di luglio? Non credo, siamo qui per raccontare lo sport e anche per divertirci e per divertirvi, e credo che lo sport sia anche questo. Poi c'è chi mi ricorda invece, dicevo, uno dei miei idoli d'infanzia, cioè Carlos Alberto Tarantini, che nel 78 andava ad alzare quella Coppa del Mondo nel Monumental di Buenos Aires con la maglietta sporca di sangue, e giustamente mi ricorda la maglietta sporca di sangue dei Desaparecidos. È vero, è tutto vero, però agli occhi di un bambino di 10 anni qual ero, insomma, rimane l'immagine di Tarantini che alza quella Coppa del Mondo, rimane l'immagine, non avevo più 10 anni ed ero un po' più sgamato, di Pantani che scala l'Alpe d'Huez. Poi mi raccontano altre storie e io ovviamente ne prendo atto e ci rifletto sopra, non pensiate. Savino da Milano, buongiorno. Buongiorno, volevo fare una considerazione sia sul Milan che sui giornalisti che intervistano Galiani. Io mi chiedo, ma perché nessun giornalista pubblicamente fa presente a Galiani che lui più volte ho sentito dire il Milan nell'anno solare ha fatto più punti o tanti punti quanto la Juve, quando nella realtà i punti dell'anno solare non contano niente, ma contano ovviamente quelli a fine del campionato. Posso risponderle in maniera maleducata? Ma l'ultima cosa, che secondo me è la più importante, è quando lui fa notare che il Milan è da scudetto, che secondo me fa ridere il mondo, perché non si ricorda che la Juve, che noi siamo arrivati a 15 punti dalla Juve, la Juve ha comprato Tevez, l'Oriente e Agubon, noi abbiamo preso Poli e Saponara. Come fa a dire che siamo una scudetto? Perché il diktat è questo, perché il Milan è a prescindere per assioma una squadra da scudetto, e questo lo sappiamo benissimo Allegri prima di tutti, no? Allegri sa benissimo che anche se non che gli vende, se dovessero vendergli Balotelli e se dovessero vendergli Echarawi e prendere chi vuole lei, il Milan è per assioma una squadra da scudetto, e lo slogan ripete la squadra più titolata al mondo, e il Milan per assioma è una squadra competitiva per il campionato e per la Champions League, ma perché questi sono, ripeto, degli assiomi, indimostrabili finché volete, però è così. Poi sono d'accordo con lei quando dice che la Juventus è due giri davanti al Milan, però la realtà è questa. Quindi tanto vale prenderne atto, no? Caro Savino. Poi sappiamo tutti qual è la realtà vera, che dice che il Milan è una squadra che non si è rinforzata, che i denari per il mercato dovevano arrivare dalla cessione di Shaarawy, che non è stata una pista praticabile, e dunque il Milan si accontenta di Poli e Saponara, e comunque per decreto rimane una squadra da scudetto e una squadra competitiva in Champions League. Dario, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno e grazie per avermi convocato. Una cosa sul Tour de France, che visto che parlate del discorso doping, non doping, e per l'amor di Dio potrebbero scoprirlo se vogliono, perché io nell'87 da agente di polizia ho fatto il Giro d'Italia e già allora giravano borracce che il corridore non andava, beveva, 5 minuti dopo sembrava che avesse il motorino nelle gambe. Mi chiedo io, con tutte le cose tecniche che ci sono oggi, è un po' un volere non volere trovare questa gente qua? O cos'altro? Non è un volere non volere, Dario, non è un volere non volere, si vuole certamente. Il problema è che sappiamo bene come è un discorso lungo e complesso che abbiamo fatto l'altro giorno, che abbiamo provato ad affrontare l'altro giorno con Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport. È una questione di risorse, è una questione di economico-politica, se vogliamo, perché servirebbero organismi antidoping nazionali svincolati dalle rispettive federazioni olimpiche, dai rispettivi comitati olimpici, assolutamente indipendenti e sotto la direzione di un organismo mondiale che esiste già, che si chiama WADA. Quindi servirebbero risorse provenienti dallo sport, ma provenienti dai governi nazionali. Non è una questione di mancanza di volontà, e aggiungo anche che in Italia si fa molto di più anche a livello legislativo di quanto non si faccia negli altri paesi. Il problema vero è che il doping è, rimane ed era, uso anche il passato, 1, 2, 3 passi avanti rispetto al doping, dunque è difficile stanarlo con le risorse e con il sistema attuali. Francesco, provincia di Bergamo, di Viterbo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. No. Allora, oggi volevo fare solamente due citazioni. Oggi sono 10 anni che è morto Sandro Ciotti. Sì. Vorrei ricordarlo con una frase, e poi anche De Zanna, perché le parole di De Zanna prima li ho sempre accomunati come persone. Sandro Ciotti una volta disse: ha arbitrato davanti a 80.000 testimoni l'arbitro Lobello. E l'altra citazione è quella di De Zanna, quando morì Casartelli. Secondo me sarà la più bella telecronaca mai sentita in televisione. Veramente, se avete la possibilità di metterla, quella che dovrebbe ricadere adesso ai 15 anni dalla morte di Casartelli. Oggi non riusciamo. Allora, le dico una cosa. Lei sta parlando di maestri, lei sta parlando di icone per chi fa questo mestiere e per chi li ha ascoltati, quindi ha ragionissima. No, oggi non facciamo in tempo, perché lo confesso, non ci abbiamo pensato, perché non, in questo momento a un minuto e mezzo dalla fine della trasmissione non è nemmeno possibile riascoltare quegli audio. Vi abbiamo fatto sentire Adriano De Zan prima commentare l'impresa di Pantani, Casartelli e quella pagina del ciclismo ci restano stampati nella mente, perché poi alla fine siamo bravi a fare tutti i grandi discorsi, no? Però per chi segue lo sport, le sensazioni, le emozioni sono importanti. E quelle sono pagine emozionanti della nostra vita. E chi le ha raccontati, i cantori di quelle pagine, erano appunto Sandro Ciotti, Adriano De Zanna, per chi, come me, ha avuto anche la fortuna, l'enorme fortuna di conoscerlo di persona. Intanto andiamo a vedere, magari pensando alle telecronache di Adriano De Zani, alla sua emozione, alla sua voce incrinata di fronte a quell'impresa di Pantani, lontana impresa di Pantani sulla montagna che andiamo a vedere oggi, cioè sull'Alpe d'Huez. Ebbene, andiamo a vedere ciò che succede oggi e magari domani ne parliamo insieme. Cosa dite? Facciamo così? Affare fatto. Franco Piantanida, autore di questo programma, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 14.